Crew strafattore nella stanza dei bottoni. Clip tipi chip clap clap dei neuroni. Alzi toni, sapore classico di rigatoni e rigatoni. Digerisco pesa altissimi mattoni. Ipocalorici, mi affido ai succhi gastrici. In bocca troppi pasti, rancidi, acidi. Sleri come chiodi conficcati nella carne. Rapporti legnosi, divorati dalle carme. Qui dura finché dura, pompa tra le mura. Questo è rap spazzatura, che gli fa cultura. 99% di genere in comune con le scimmie. Quel fottuto 1% che ci contraddistingue. Giuro non si estingue, per contarci una certezza. Quanto è vero che buoni si nasce, bastardi si diventa. Si fotta chi non mi accetta, accetta. Non restate indietro perché Simo non vi aspetta. Yo, yeah. Carruggi unici, yeah. Medi Cage, Euroman, Jamal. 99% scimmia. Liguria, l'evoluzione è finita. 99% scimmia. La crew si è estinta. Hip hop hiaci, oxygen seri fletci. Respiri bli pian, flow ucciak dmaghi qrajci. Sono qui per dire, عندي ميساج باغي نوصل. ماشي كي شي براش بياو ياو باغا توصل نستاهل. ومورا المايك جديد وباقي. إلا كنتي خرماس خلي الرابر الراب نقي معاك. الميديكات في جيم الراب ليحك في الجوج. كيف ما بغيتش الراب غاني ما ندوزوش. عشرة الراب عشرة صحوا فيه لحد الهموم. وقد بالكلمة كلمت الراب بقاك الكلام. ليك فكرة فيك انت خليك بعيد ياو. الراب ميساج وتشوم كتبت وامسح حوايج العين. ميديكات باقي جديد باقي تراك غير نسيت. نحت سميتي فلوك يودوك جامع حديد. عالبازا خنق في الراب كلام خاوي كربون اوكسيد. الله يهديك خليك بعيد بغينا الراب يزيد. Non stiamo qua dal 3 agosto. 99% scimmia. Liguria, l'evoluzione è finita. 99% scimmia. La cruz è estinta. Non ho più un dito intero sulle mani. Ho tante lastre nel cassetto, quanti sono infami. Cani che ho lasciato sulle statali. E tengo lontani dai fatti personali. Bla bla bla bla, chiudi la bocca e taci. Perché la metà su di me sono fallaci. Piaci perché non sei te stesso. Chi mi vuole ancora ubriacone sta con la testa nel cesso. Vomita la bile, testa di ca. Io ho perso troppo tempo in clinica. Nervi su nervi che aumentano ogni angolo. Vorrei uccidere tutti quelli che mi guardano. Ehi, hey, sono Fabietto figli di puttana. Cazzo vi guardate che c'ho la mente malata. Avessi solo un giorno di galera per un omicidio. Avrei l'ergastolo perché son pieno d'odio. 99% scimmia. Liguria, l'evoluzione è finita. 99% scimmia. La tua crew si è estinta. 99% scimmia. Liguria, l'evoluzione è finita. 99% scimmia. La tua crew